Rita 101 è l'omaggio della rete a Rita Levi Montalcini e al suo 101esimo compleanno. Trattasi di una diretta online a rete unificata che andrà online giovedì 22 aprile dalle ore 21 sulle micro web TV italiane, sulle web TV e web radio universitarie, sui micro media iperlocali e sui blog e videoblog. Ad oggi hanno aderito oltre 150 piattaforme. Altre continuano ad iscriversi e potranno farlo fino a poche ore prima della diretta su www.rita101.tv. Allora Giampaolo, a che punto siete arrivati con questa diretta reti unificate? Beh, straordinario, siamo arrivati a 176 piattaforme iscritte che trasmetteranno a rete unificata giovedì 22 alle 21 questa maratona di auguri per i 101 anni di Rita Levi Montalcini.